mi desto al mattino, il primo raggio di sole, pallido ancora, ti ricordo nel profumato giardino, fra quelle piccole viole che amavi tu. Il primo incontro, la prima emozione, i palpiti del cuore. Il primo bacio, la prima passione, dimenticare non so. Ti ricordo al pianoforte stasera, nella canzone più bella scritta per te. Sera, nella canzone più bella scritta per te.